Two. Audio. Slick way out west. L-O. Keep that down. 1095. Audio. And gone. Radio cruiser. Sera 27075, reattore Gavino Almacchi, c'è qualcuno? Ciao Franco, buonasera e ben sentito. Cazzo. Allora, tutto bene? Tutto bene. Sì. Mi stavo facendo con roba qua in radio e... adesso accendo un po' il... cioè era già acceso, però ero un pochino su e c'è un po' di propagazione, quindi ho fatto qualche chiamata e diciamo ho avuto delle risposte, però poi è andato a svanire tutto, e ciccio. E quindi fra, tutto ok? Tutto a posto, andare. Non è stata proprio la radio questa, Gabri? No, mi sta arrivando benissimo. Perché cosa hai fatto fra? No, niente, c'ho la... mi ho messo la cuffietta sopra, gli ho messo quella cuffia anti soffio, sotto il vento. No, ti ascolto bene, è perfetta. Prova a toglierlo, ma è una tratta. Adesso non c'è più. No, non è in attrata, è in cazzo. È diversa. Sì, con la cuffietta è più chiara. E forse filtra di più la situazione. E vabbè, l'ho messa perché ce l'avevo buttata lì, mi è caduta addosso, allora l'ho messa lì, per non muoverla. È positivo, no, fai bene, ha fatto bene, no, sono accorgimenti a volte che ti fanno, dai, che sembra così, ma vai a migliorare, si va sempre a migliorare. Io qua in questo microfono lo stesso ho una tela di 0,5 mm, dovrebbe togliere quel coso, quel fastidio del soffio. Capo, sì. La cuffietta serve per quello, serve. Per togliergli più che altro il soffio. Anche quando sei fuori, all'aperto, la metti quella e il vento lo senti come col microfono nudo. Sì, è vero. Ti sta arrivando sempre bene sta radio, Fra? Sempre uguale, sempre benissimo. Ok. Comunque, quell'alimentatore che ho preso ieri è 10. Adesso martedì portano quelli da 30 ampere. Vabbè, se quello era 15 lo devono portare bene, perché non è che ti assorbe 15 ampere, no. Se ti assorbe 3, 4 ampere, 2. Secondo me quello là ne assorbe 8 o 10, eh. Oh, te ne assorbe così. Insomma, e beh, sei sempre dentro. Sì, ne hai 5 in più e va bene, va benissimo. Prenderli giusti poi. Non va bene. Infatti, averli più è sempre bello, cioè metti uno di 30 è sempre meglio, e fa meno sforzo. Sì, è beh. No, poi l'alimentazione è tutto qua. Esatto, la chiusi lo prego un altro giorno. L'alimentazione è tutto. Perché me ne accorgo io quello grosso, quello per, diciamo, che sto usando in questa radio qua, è Mannu, e grazie a Dio non mi ha mai dato nessun tipo di problema, e a questo qua c'ha l'amperometro e il termometro, quindi è tutto sotto controllo. Eh, handicap è come il mio stesso, che c'è l'autometro, è voltometro, amperometro e voltometro, anche se c'è uno solo, però fa per due. Sì, sì, sì, vanno bene, vanno bene. Vanno bene, cioè oggi c'erano, cambiando discorso, c'erano di quasi 20 gradi, 19 gradi e mezzo. Boh, se iniziamo da adesso è un guaio, eh? Un bello casino, perché arriva, cioè a questo punto noi arriviamo a fine aprile e siamo vicini. Hanno detto stamattina al TG, hanno detto che sarà l'estate più calda di sempre. Vabbè, l'hanno detto anche l'anno scorso, però vediamo un pochino. Non se ne può più, non se ne può più. Io qua in campagna ho già le graminacce e sono quasi gialle, mi voglio fare la sacchi di piura, è quasi gialla, assurdo, già a marzo uscivano quell'erba di giugno. Eia, ma ci sono cose che non dovrebbero fiorire, fioriscono adesso, fioriscono, purtroppo i uccini, anche le piante della frutta, ci sono alberi di frutta che sono, dovevano fiorire all'agosto, stanno già cominciando a fiorire. Le mandorle sono già in fiore. Ah, mai da un poco. Vedi tu, quella è roba di giugno, quella è roba di giugno. A me da un po' così, c'è un vino ciambato, un certo battente, qui, eccolo, siamo un po' incasinati, collato, perché si fa un'estate russo e anche perché acqua non ne ha fatto niente quest'anno, siamo buttiti, siamo blu, non c'era. Dice che basterebbero altri 10 giorni di pioggia, noi con le riserve di acqua siamo a posto, però sicuramente secondo me siamo a posto niente, perché i bacini che ci sono bacini vecchi e noi stiamo sempre aumentando, quindi non sarà mai a posto, le esigenze sono sempre superiori a quelle degli anni scorsi, quindi non... siamo sempre a punta a capo, non basta mai. Va bene, cercheremo di arrangiarci. Bisogna trovare la soluzione per portare l'acqua dolce, l'acqua di mare all'acqua dolce. Bisogna trovare un brevetto e diventiamo ricchi. Alla bimbo devo trovare il mio bimbo. Davvero? Capita, poi svuotiamo anche il mare. Va bene, io via. Caspita. No, oggi, ma stamattina erano un quarto, c'erano 19 gradi e mezzo, cioè allucinante. C'era caldo, oggi è un po' meno di ieri. Ieri mi sembra che c'era molto più caldo. Anche ieri ha fatto caldo, cioè non è che ha fatto caldo, per essere a marzo ha fatto caldo. Però questo è anche un mese pazzerello, che due di fa il gaggia, poi dopo di una settimana, dopo 4-5 giorni ne scenderà. Adesso vediamo un po' se è così, perché poi ci rimane aprile e bascia. Sì, vabbè, dai. Vediamo come va, se no ci siamo a casa e accendiamo l'aria condizionata. Meno male che abbiamo finito di travagliare. Lo so, dice la Sardegna è bella, mare, montagna, tutte le belle spiagge. Per chi va in vacanza, perché altrimenti non è bella, altrimenti sì è bella, ma non te la godi, mi segui. Quello ti voglio dire che dicono beato te, io ho molti amici c'è molti conoscenti in continente, dicono bella Sardegna, beati voi, se devi lavorare non è bello. Lo stesso brutto. Se devi lavorare è un casino, è brutto. Allora va bene, diciamo che la Sardegna è bella quando sei impegnato di lavoro e te la giri, allora sì. È positivo. Cioè noi si va in vacanza fuori, si fa in vacanza all'estero. magari non si è girata la Sardegna, perché qua ce n'è tanti posti belli, sono posti bellissimi, e uno dice ma me ne vado alle Maldive, me ne vado qua, me ne vado là. Se giri la tua terra, altro che il continente o estero, sono certe calette, certe insenature che fanno paura. Certo. Prima del Covid mi ho girato un po' di paesi, tipo da Sassari alla zona di Nuoro e su, mi ho girato, tutto corso d'aperto per quelle mi ho fatto. Ed era bello, andavamo la domenica in Puma, per non stare lì con la macchina, andavamo in Puma, avevamo un biglietto e ci divertivamo, ma era bello veramente. Poi è entrato il Covid e era molto brutto. Sì, è vero, come è entrato il Covid siamo andati tutti a morire. Però con le corte aperte sta diventando la roba e cioè alle stelle. Fanno pagare un pezzo di formaggio che sarà neanche mi sembra che ti fanno pagare il formaggio a 25, 27 euro al chilo, ti fa la salsiccia a 28, fa assurdo, roba, è proprio roba a fare i soldi, mi segui. Capo, sì, ma quello è uno scopo anche quello, per fare i soldi, non è che te la regalano la roba. No, ti fanno fare gli assaggi, queste cose qua, ti fanno fare una cosa o l'altra, giri, c'è qualcosa, te la compri, se ti va, se non la lasci, sei obbligato a comprare, però diciamo che lo sappiamo che queste cose sono fatte, queste feste sono fatte proprio apposite per far vedere, per dire, il paese a chi non l'ha mai visto, perché ti fanno vedere anche case quasi varelle, quasi un casino di roba. Del resto lo sappiamo. Sì, vabbè, a Fadina, fanno bene, però quando dicono che cose aperte qua è soldi, a fare soldi e basta, perché poi il gasivare deve avere un bulo lui, forse è un bulo più detti. Certo. A Fumi siamo andati, questo qua ero io, mio fratello, un mio cugino. Al marito di mia cugina, eravamo in quattro. A questo di fondo, quando gli abbiamo detto, ci ha detto, dice, dove siete? Ha detto di sotto. Sorso, e si sta parlando alla Gantina, la prima di embriagheggia. Sì, per trovarti bene, diciamo, perché poi la roba buona la danno a chi vogliono, cioè di lì magari c'è roba molto commerciale che mettono a vendere. Però chissà, ho evitato in certi paesi di andare a Cortes Aperi, sono andato in un paese sarei dato brucavo budito, che euro brucavo non mi so come a farlo, però se lo facevo io era più buono. Proprio quella era proprio poi il vino in quel posto doveva essere nocchi, era roba, dai, proprio roba a fare i soldi e basta. Sì, ma il vino l'ho assaggiato in un altro paese che non mi ricordo, a Vienna, ha già assaggiato, ma buonissimo, buono, vino di proprietà. Io a Vienna me l'avevo preso il vino, quando sono andato a Cortes Apertas, e di lì abbiamo mangiato questa la seara, se l'ho fatto buona, poi c'era questa purpura, questa diciamo le loro cose, le loro usanze, ma forse è stato l'unico paese che siamo trovati bene. Il vino ne prende capita buonari 2000, buono. Veramente, io da tutte le parti veramente ci siamo trovati bene, e poi più avanti se continuano, magari nel prossimo anno, se fanno di nuovo qualcosa aperto, un altro giro, però dove non ci hanno andato. Guarda, secondo me è il posto buono, il posto dove andare è la cosa, la mammogliata, secondo me è il più, diciamo, sono più, il più conveniente, il più conveniente. Sì, mammogliata siamo andati, siamo, era bello, questo ci faceva bello. Mammogliata ci va molta gente di Porto Torres. A memoria ci va molta gente di Porto Torres, perché sono amici di quelli lì e quando cantano, suonano e so, ci va molta gente. Questa è la memoria, c'è il pienone. Capo, memoria c'è il paese di Porto Torres. Sì. Il paese dei Mamutones, quello stesso, quelli girano tutto il mondo. Lo so. Gigi, il grande Gigi. Il? Gigi, il protagonista dei Mamutones. Non dei coso, ma San Napoli. Non Mamutones, mi stavo sbagliando adesso. Degli Centales. Degli Centales. Io conosco bene qua Gigi Sanna. Certo. No, io di persona l'ho visto da lontano, così cantando, però di persona proprio avvicinato ormai. Amico di cosa, di Gianluca? Sì, è lui. Io sono molto amico di, cioè, non sono molto amico, però lo conosco bene. Gigi Sanna. Quando andiamo a fare i concerti in Baedo, Biglia, è meglio di un ristorante, mangi. Lui taglia le fette della salsiccia fatte da lui a non meno di 2 centimetri. E la base di buona la salsiccia. E lui fa buona salsiccia, fa buono il guanciale, fa buona la coppa, fa buono il formaggio, fa buono le mozzarelle, alleva i porcetti lui. Sono fase di tutto, arriva a fase di tutto, vino. Ci mancherebbe altro, lui ci lavora nella terra proprio, lui questo che fa di cantare è una passione. Passione sì, è la passione, però adesso già è diventato anche un introito, perché mi considera che fa, anche un album con Vecchioni, ha fatto un album con Modena, ha fatto un album con Danilo Sacco, dai, ha molte, con Inovali ha cantato, è conosciuto, è molto conosciuto in Italia, quando viene nei Noghi, lì si, secondo me, gli anni 40 chili. Sicuramente sì, dai, di Buoncuri, io so che c'è molta gente che lo conosce bene, e di Buoncuri lui visto Sabazzone. Ma stai scherzando, quando sono venuti a Porto Torres l'anno scorso, ha organizzato una cena in un circolo, alla cena di prima del concerto, secondo me in un agriturismo non mangi così, ha portato porcetto, ha portato salsiccia, ha portato affettati, ha portato gnocchetti, ha portato di tutto, il vino, però tengono il vino dietro il palco, vino buono, noi si imbriagheggiano, però hanno roba buona, loro dove vanno e vanno, si portano sempre la troupe, sono almeno una ventina di persone, chi prepara a mangiare, chi apparecchia, chi fa quello, quell'altro, e poi non girano soli, loro prendono, apparecchiano, fanno tutto, danno i gazebi, apparecchiano e mangiano, non gli deve nulla a nessuno. Tutti sono così da lontano, cantando, io sul palco io e io mai dentro, non va. Io già lo conosco bene, in gamba, già in gamba. manca nuda e quando è non ti guardi manca nuda a chi la nostra qualità è assurda. Ecco, bello, bello, ci vediamo più avanti se riusciamo a farcene qualcun altro di questo rapporto. E adesso quando sono a settembre? Penso, cominciano a settembre. Fanno settembre. A Funi mi sembra il giorno dell'Immacolata, se non sbaglio. Non me lo ricordo, quando è che siamo andati a Funi. Può darsi. All'Immacolata dovrebbe essere Funi e tre giorni, capita nei giorni dell'Immacolata. Capo, ma da tutte le parti mi sembra che siano tre giorni lì. Sì, è vero. È da tutte le parti tre giorni, è vero, questa cosa me la sono dimenticata. Perché io mi ricordo che una volta l'autista, che era un autista vicino, di qui anche un CB, mi ha detto, dice, no, tre giorni è, oggi state andando voi, domani c'è un altro gruppo che va a che parte. Per tre giorni dice io devo andare lì. Sì. Ma andare in pullman è meglio perché così non fai problemi di guida. Così si deve bere qualcosa tra la biffi. Metra, io devo preparare perché devo andare a fare. Dai. Doveri di famiglia. Ok, va bene, dai, ci sentiamo allora. A domani. Ciao Gabi, divertiti, buona serata. Va bene, grazie Franco, se rientro presto faccio una chiamata, se ci sei magari ci vediamo stanotte. Ok, ciao frate, mi stanno chiamando, mamma mia, ci sentiamo un po' più tardi o domani, ciao, buona serata. Ehi, non si prende la braccetta la bottiglia, No, devo guidare. ciao, buon divertimento. Ciao, grazie.